24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Ma che deve fare Silvio Berlusconi per decadere da senatore? Cosa deve fare? Deve invadere la Polonia, deve bombardare l'Uganda, deve impiccare il cane Dudù. Cioè qui stiamo parlando di una cosa che in qualsiasi altro paese normale sarebbe già avvenuta per decenza. Parliamo di uno che non la dovrebbe più fare a prescindere dalla politica. È già finita, basta. Costui è Andrea Scanzi, ieri da Lilli Gruber, povero Dudù, ma no, ma perché dovrebbe impiccare il cane Dudù? Ma insomma, che deve fare? Bombardare l'Uganda? Invadere la Polonia? Quella l'abbiamo già vista, per la verità. E vabbè, ci siamo, cari ascoltatori, brevi titoli. Repubblica, governo a rischio, Il Giorno, governo, giorni contati, Il Corriere della Sera, il governo tiene. Bah, si capisce più niente. Le 6:32 minuti, questa è 24 mattino, c'è Miriam Lucchetti in redazione, c'è il nostro alpino Peter Bescapè, ve lo diciamo subito, domani saremo qua. Saremo qua venerdì 1 novembre, tutti qua? Sì, Miriam Lucchetti qui, l'alpino qua. Eccolo qua. Ah, si aprirà anche il bar anche domani? Il caffè volentieri a tutti quanti. Io non lo voglio anche il caffè dell'Alminetti. Tu continui, che sì, forse sì. Hai preso anche tu i suoi favori? No, Prostate col caffè della Minetti, noi non va lo bene. Vogliamo dalla Minetti, brutto cretino d'un Milan. Va bene. Evviva tutti, evviva il Parlamento. Voglio salutare from Rimini Beach con furore Lia Celi, buongiorno. Ciao, buongiorno a voi. E come va? Tutto a posto? Ma guarda, sono quasi commossa perché sentire parlare della Minetti ormai sembra veramente, se ci pensi, di parlare di un tempo lontanissimo, sì, di un'epoca, sì, sì. Ere fa, forse un'era paradossalmente più felice e serena di questa, è impossibile. Addirittura. Erano i tempi d'oro in cui si parlava alla fine di cose divertenti come le cose eleganti. Ma la vedete mai? La vedete più a Rimini? Si fa... Dov'è soprattutto? Perché la danno a Miami, fidanzata di Ibrahimovic? Se ne dicono di tutti i colori. Dov'è finita Nicole Minetti? Guarda, qui a Rimini credo che frequenti soprattutto la sua famiglia, ma ormai sarebbe una questa piccola città di provincia, le va stretta, però d'estate viene ogni tanto così fotografata e avvistata sotto i nostri ombrelloni così della riviera, naturalmente circondata subito. Insomma, non sai dov'è, anche tu non sai dov'è adesso, in questo momento. No, secondo me sta meglio di me di te, guarda. Sì, sicuramente starà dormendo, ecco, questo è un dato di fatto. Non certo. È detto, può anche darsi che non sia ancora andata a dormire. Ma può anche essere, dipende anche dal fuso orario, poi chissà dov'è. Vabbè, voglio salutare Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama, buongiorno Maurizio, svegliato. Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti. Certo, se siamo già a rimpiangere la Minetti, siamo ridotti veramente male. Che ragione, siamo ridotti veramente male. Sì, abbastanza male, effettivamente, Maurizio. Io è da un po' di tempo che lo dico che siamo ridotti. Adesso magari non malissimo, ma insomma, ci stiamo avviando un pochino verso. Vabbè, insomma, Berlusconi oggi non la scampate. Berlusconi, allora, che deve fare, caro Maurizio? Invadere l'Uganda? No, la Polonia? Bombardare l'Uganda? Si chiedeva Scanzi. Ma Scanzi può dire quel che vuole, certo. Una sana incazzatura la può provare, e devo dire, neanche tutti i motivi di farlo in questo caso, perché forzare un po' il regolamento come ha fatto ieri la giunta mi pare francamente non bello, dopo averlo accusato per anni di aver fatto le norme personam, fare un regolamento ad personam, anzi contra persona. Tu dici questo, le hanno fatto una cosa, pensa che io lunedì in TV, pensa, incredibile, faccio un programma anche in TV, avevo Antonio Di Pietro, e perfino Antonio Di Pietro mi ha detto: io sarei per il voto palese, certo che però farlo proprio adesso contro Berlusconi sembra proprio una cosa, no? Perfino Antonio Di Pietro. Sì, ma anche la Bindi ho visto, era perplessa. No, Rosi Bindi per Berlusconi, no, questa mera. Oggi sulla stampa. Da qualche parte. Il Corriere l'ho letto, la stampa non ancora, la leggerò tra un po'. Eccolo qua, era meglio non forzare, è vero, Rosi Bindi, e forse sì, era meglio. Polito sul Corriere della Sera conferma che è un errore. È un errore. E chi lo sa? Vabbè, tu voterai come Maurizio? Ah no, no, cosa c'è? Pensavo fosse palese per tutti. Basta, ormai ho perso la testa. Tu lì a Celi cosa voti? Cosa voterai per la decadenza di Berlusconi? Ah no, neanche te sei al Senato, Lia. No. È troppo giovane. Mi piace, perché deve essere un posto molto divertente, ma mi dispiace, in effetti la forzatura, non so neanche se parlare di forzatura, ma visto che siamo, che tra poco c'è Halloween, possiamo anche essere in tema di così creature della notte, in effetti dici. Le notti di Berlusconi, insomma, le conosciamo tutti, ormai si prova di tutto, il paletto di Frassino, la pallottola d'argento, sì, l'aglio, sì, la croce, sì, esatto, insomma. Sperare che invada la Polonia, sperare che bombardi Luganda. Ma cosa fa a scanzi Luganda? Non lo so. Ha già tanti problemi. Non lo so, infatti, povera Uganda. Vabbè. E il dato di fatto che è questo: sentite per esempio Anna Maria Bernini, vabbè, ovviamente vi lascio immaginare i giornali oggi tornano, già di solito avevano le 6-7 pagine di retroscena della politica, immaginatevi adesso il Silvio furioso, Silvio che non pranza con Alfano, Silvio Berlusconi arrabbiatissimo, Silvio Berlusconi che ha chiamato il professor Becchi ad agosto, però l'ideologo di Grillo, fammi incontrare Casaleggio e Grillo, cioè, ormai è proprio la Berlusconi. Sì, è ridotto male. A chiamare Becchi. Sentite l'ex ministro Bernini del Popolo della Libertà. Dalla storia della Repubblica con Costituzione del 48 in poi non c'è mai stato un voto palese, quindi ancora una volta, visto che il Partito Democratico si riempie la bocca di espressioni come la legge uguale per tutti, ancora una volta si è dimostrato che la legge per Silvio Berlusconi è un po' geneticamente modificata, ma non in meglio, come dicono alcuni, evidentemente in peggio, anzi direi al massimo ribasso. Eccolo lì. Poi vi voglio far sentire un re di vivo, sicuramente uno che Tortorella voterà tantissimo, no, è vero, non si ricandida più. Maurizio, Gianfranco Fini, wow, sentiamo Gianfranco Fini che è tornato, ha scritto un libro, è proprio sull'onda, sta surfando Gianfranco Fini. Nato il PDL, Berlusconi ha fatto quello che sempre aveva fatto nella sua vita, nel Milan, in Mediaset, io sono il leader, io decido, voi dovete eseguire. Voi dovete eseguire, vabbè, insomma, poi sentiamo. Sì, volevo far notare una cosa che avevo segnalato anche su Twitter. 8 secondi di Fini mi è calata la palpebra, devo dire. No, ma Fini sta assomigliando sempre di più a Mike Bongiorno. In TV l'avevo confuso e ho visto che molti su Twitter mi hanno detto, cavoli, ma è vero, insomma. Ma perché Mike Bongiorno? Si sta geneticamente modificando. Ma in che senso Mike Bongiorno? Cioè, assomiglia proprio fisicamente? Come aspetto, gli occhiali quadrati, non so, forse questo me la sono persa, non me la sono vista. Ma come Mike Bongiorno? Ma che assomiglianza con Mike Bongiorno? Ma come Mike Bongiorno? Tu Maurizio l'hai visto in TV? No, non l'ho visto in TV, comunque Mike Bongiorno era simpatico. No, pensavo che fosse una scritta di Mike Bongiorno. Sentita, dice, almeno era simpatico, Bongiorno. Ma che è successo a Fini? Io non lo so, per veramente, e sono quelle storie della politica, vabbè, sentiamo anche Fini, poi tuona contro Berlusconi, sentiamo Gianfranco. No, io credo che Berlusconi non abbia alcuna possibilità di farla franca, nel senso che non otterrà il salvacondotto che il PDL con tanta retorica va chiedendo, dicendo che si tratterebbe niente meno che della pacificazione, un termine usato veramente in modo improprio. Maurizio è anche dimesso, mi sembra, nel tono. È mesto. No, ma è tornato sulla scena da una settimana, già la voce di uno stanco morto. Sì, è stanco morto, c'è una serie di interviste per il libro che ha scritto, è così, Maurizio, vabbè, Fini, oggi una pagina di intervista anche a Casini sul Corriere, voterà sì. Che dobbiamo aggiungere su questa vicenda? Maurizio, come finirà? Perché si parla della possibilità che 20 senatori chiedano comunque, in base all'articolo 25 della Costituzione italiana, di rivedere questa decisione, al che deciderà Grasso. È possibile, Grasso. Tanto la rotta è segnata, il destino è noto, la fine è nota, come diceva sì. Shakespeare, perché adesso che se ne decida sulla decadenza in base alla legge Severino, Severino sì. Grazie, scusami, ne sai, qui si perdono colpi, arriverà comunque la sentenza della Cassazione, tardissimo sulla... Ma sì, ma infatti, cioè, ma io non lo so veramente. No, l'unica vera questione vera è regge il governo oppure no? Cioè, quella è l'unica cosa che interessa agli italiani e forse un po' anche al mondo, nel senso che ci guardano. L'unica, no? Reggerà il governo per questa vicenda oppure no? Anche da questo punto di vista la decisione di ieri è una stupidaggine, se vogliamo, perché obiettivamente, insomma, No, infatti, molti si chiedono, ci si accorgerà della differenza se il governo è caduto o no, visto che da quando si è insediato. Eccola lì, soprattutto se si andrà a votare, sì. Però, insomma, parliamo di cose diverse dalla politica, anche se sono molto affini alla politica. Oggi voi di Panorama buttate lì una cifra, cioè buttate lì, non è che avete giocato all'otto. Ho proprio sbagliato l'incipit. Mettete lì sul piatto una cifra ben studiata, anche perché chi lo dice è colui che ha presieduto la Consip, cioè questa centrale di acquisto, no, dove si dovrebbe tutti rifornire le amministrazioni. Ecco, si chiama anche Gustavo Piga, e va bene, ho studiato tutto. Di quanto lo Stato spreca? Allora, dilla tu la cifra, Maurizio. Sono la bellezza di 30 miliardi ed è una stima ottimistica. 30 miliardi di euro. E soltanto sugli acquisti dei beni. Sì, cioè sugli acquisti, cioè per comprare le sedie, le scrivanie, le auto, i computer e chissà quanti sono in tutte le amministrazioni, insomma, immaginate. Lo Stato, secondo le leggi approvate, mai applicate in questo strano paese, sì, stabilisce che tutte le amministrazioni pubbliche dovrebbero uniformare i prezzi di acquisto a quelli stabiliti dalla Consip, la centrale unica di acquisto, cioè si compra tutti lì. Per esempio, una sedia dovrebbe costare normale 124 euro. Sì, esattamente. Invece alla fine ci sono state tantissime, ci sono, continuano ad esserci tantissime amministrazioni pubbliche che la comprano, invece con 86 euro. Ah, 86, 124. A 124, sì. Oppure, che ne so, un PC invece che 539 euro di media, secondo la centrale unica d'acquisto, l'acquisto medio, comunque ci sono amministrazioni che arrivano a 740 euro. Insomma, scrivanie che triplicano di prezzo, ma anche i servizi, intendo dire che è una cosa altrettanto grave. Per esempio, una chiamata telefono fisso al minuto, invece che costare 48 centesimi, ne costa a volte il triplo. Cioè meno, 0,48 centesimi, cioè 0,048, no? Invece costa 20 centesimi. 20 centesimi, insomma, Oppure poi si va sulle macchine, no? Macchine, auto media cilindrata, invece di costare 16.400 euro, costa 17.000 euro. E così sono gli sprechi. Ma ho capito, ma perché ci sono questi sprechi? Perché c'è qualcuno che ce magna? È molto più banale, molto più triste, perché nessuno controlla. Nessuno controlla. Alessandro, sì, tanto non pagano, la pubblica amministrazione poi non paga, le aziende assolutamente rovinate dal fatto che lo Stato... Ma io lo dico tutti i giorni, e tu me lo confermi, Maurizio, la sensazione è sempre quella, nessuno controlla, tanto sono spese mie, tue, di Lia Celi, di tutti, quindi essendo un po' di tutti, chi se ne frega? Chi se ne frega? C'è da rivalutare i fagiolini di Palazzo Grazioli a 80 euro al chilo, che almeno se li pagava lui. No, infatti, almeno quegli 80 euro Palazzo Grazioli se li pagava, giustamente, i fagiolini. No, ma è una cosa incredibile, 30, così se ne andrebbero 30 miliardi, ma 30 miliardi quanto? Ogni anno, no? Ogni anno, sì. 30 miliardi all'anno. Cioè, il 2% della spesa pubblica. Altro che Carlo Cottarelli, altro che usare il coltellino, no? Carlo Cottarelli. Posso dirvi che andiamo avanti sul tema, sì, perché abbiamo fatto altre scoperte in materia. E settimane prossime, quindi ne vedremo delle brutte invece che delle belle. No, qua ma sono indicazioni utili proprio per Cottarelli, credo. Ho capito, certo. Sì, ma voglio dire, la questione non è tanto indicazioni utili, cioè che ci debbano essere dei costi uniformati, non è che lo deve scoprire Cottarelli, lo si sapeva prima, lo si sa oggi, lo si saprà tra 10 anni, ma la sensazione è che poi la soluzione sta nelle cose semplici che non si fanno e che tutti sanno quali sono e non si fanno. Questo è un classico esempio. Cioè, Cottarelli può dire bisogna uniformarsi tutti ai costi della Consip e grazie al picchio, cioè lo sappiamo già, eppure non si fa. E quindi a che serve? Non lo so, non lo so. Vabbè, piccolo sfogo, così mi sono svegliato, vi siete svegliati anche voi, va bene? 24 mattino. Un grillino va in Trentino e ci lascia lo zampino. Per favore, toglieteci dalle palle Berlusconi, per favore, è un'ossessione. Ciao Alessandro Milan, sono Vincenzo, chiamo da Chieti. L'abolizione delle province, io lavoro, aspetto contatto con lo Stato, ma forse più che le province, sarebbero da abrogare le regioni. Ho respirato, ho contato fino a tre, però i politici ci sono sempre, sempre quelli, nessuno li caccia. Sì, caro Milan, ce l'ho proprio con te. Come fai a dire che non sei d'accordo con l'omogenitorialità? Io lavoro con i bambini, sono omosessuale, lavoro con i bambini da 22 anni, il mio desiderio è quello di avere un figlio e mi accontento di due gatti. Ma perché? Perché la società non è pronta ad accettare, è la società che dice che io non posso essere un buon genitore. Allora, siccome Roma è diventata la capitale della sporcizia, dell'incuria, del degrado e che oltretutto adesso ci sta per regalare anche l'aumento dell'IRPEF, io mi sto organizzando per trasferirmi a Merano, dove la pulizia è la regola, la manutenzione pure e soprattutto zingari non se ne vedono, va bene? Ma questi benedetti gay, queste lesbiche, tutta questa gente ibrida non potrà mai essere protetta da nessuna legge. Sono loro che non riescono a stare bene con se stessi e si mettono in ridicolo rispetto al resto del mondo. E che ci possiamo fare noi? Il comandante è distratto sulla plancia, la mordava gli eleva l'attenzione, ma a mare cala subito la lancia, si acchiappa la barra del timone. Il nostro stornellator cortese, cara Lia Celi, è tornato a colpire. E questo stornellatore che ci lascia dei versi in rima. Ma capito, peccato che non li canti, perché sarebbe ancora... no, per carità, no, non dargli questa idea che poi si mette lì col mandolino. Allora, a me però manca quello della zappa. La zappa, lo so, è un po' scomparso, ma ogni tanto... Fare un appello perché si... Facciamo un appello, caro Angelino, coltivatore, vieni, qui intanto la zappa, se vuoi, te la facciamo risentire, non è che... La zappa ci vuole, la zappa da 7 kg! Eccola qui, quella, vabbè, c'era anche a Zappalucampo. Vabbè, però con i prezzi della Consip, anche la zappa. Sì, esatto, chissà quanto costa la Consip, una zappa per tutte le amministrazioni da tenere lì, la zappa da 7 kg. Allora, tornare un attimo sul tema, perché ieri ho espresso il mio parere sulla, come ci ha lasciato un messaggio un'ascoltatrice, e vorrei sapere anche il parere di una donna che ha 4 figli, di Maurizio, che ha un figlio, sulla omogenitorialità, cioè le adozioni agli omosessuali. Ieri ne parlavamo, io sono contrario, cioè alle adozioni è un'idea, mica sto dicendo che un omosessuale non possa essere un bravo genitore, cosa c'entra? Sarà un bravissimo genitore, ci sono genitori omosessuali, sono bravissimi genitori, però penso sono così arcaico del 1300 che un bambino cresca con un padre e una madre, è un'opinione. È sbagliata? È la mia opinione, ma Lia Celi che ne pensa? Io penso che la maggior parte di noi siamo cresciuti allevati da due donne, cioè la mamma e la nonna, quindi una coppia. Quindi va benissimo così. Tu Maurizio che ne pensi? È un'opinione un pochino più articolata, mettiamola così. Sì. Allora, premesso che Panorama, per esempio, ha fatto la copertina per il matrimonio dei gay. Sì, è vero. Ma il matrimonio è un'altra cosa. Siamo assolutamente schierati e comprensi e partecipi, assolutamente. Io sono convinto che la crescita sentimentale di un bambino, piuttosto che da solo o piuttosto che in un orfanotrofio, sia meglio assolutamente con chiunque sia in grado di dare. Certo, però viene messa sempre questa due cose, cioè piuttosto che non è che le alternative, non è che una cosa sia alternativa all'altra. No, pensavo all'adozione in realtà, ecco, sull'adozione io sarei favorevole. Con qualche perplessità, che però condivido con te sul fatto che appunto poi nel rapporto con i coetanei, col prossimo, a scuola, eccetera, il figlio di una coppia può crescere magari con qualche problema, però insomma comunque sono opinioni, infatti voglio dire, prontissimo a parlarne, a discuterne con chiunque, ma nessuno ha mai detto, io tantomeno, che un omosessuale non possa essere un bravissimo genitore. Allora la notizia pare questa. Reggiti forte, cara Lia Ceni, reggiti forte. Mi attacco alla sedia. Sei attaccata. Allora, tu sai che Silvio Berlusconi ha una chiesa nel lì ad Arcore, una chiesetta privata. Ma non è vero che si è sposato, dai. C'è Maurizio Sutton. No, questa è la so. Pare, no, ho capito, ma un matrimonio di quelli finti, la notizia, scusami, un po' come a Las Vegas, quando ci si sposa a Las Vegas, cioè, che non ha valenza dal punto di vista né religioso né civile, perché, però pare che si sia addirittura sposato con la mamma di Dudu, cioè nel senso la Pascale, l'amica di Dudu, insomma, la Pascale, cara Lia Ceni, in una cerimonia. Ma che faceva già questi finti matrimoni a Villa Certosa, non so se ricordate, che venivano proprio raccontati questi cortei. Ah, c'ha tipo 30 mogli in realtà, quindi. E poi comunque io devo dire che in questo momento particolare mi ricorda in maniera inquietante Hitler con Eva Braun nel bunker della cancelleria. No, Berlusconi come Hitler, attenzione. No, questo matrimonio proprio in articolo mortis, è brutto da dire, in un momento molto drammatico, quando la fine incombe, quindi giusto per darle una piccola soddisfazione, regolarizzare la posizione. Adesso questa la twittiamo subito, lì a Cepa. Già fatto. Ma la twittiamo anche noi, così ti massacrano doppiamente. Hai sentito, Maurizio? Si è sposato come Hitler Eva Braun. Oh, un paragone sobrio, poteva paragonarla, che ne so, a chiunque nel mondo. Dove invadere la Polonia, l'aveva detto Scanzi. Sì, è vero. Vedi che tutto torna, caro Maurizio, doveva invadere la Polonia e quindi è come Hitler. Bene. Che dire... Io vi saluto e vi do appuntamento quando volete. Siamo qua. Ricordate Panorama con questo titolo: sprechi di Stato, questa cifra incredibile. 30 miliardi di euro. Il tema è questo: perché la stessa sedia può costare 86 euro o 124 euro se la compra uno dell'amministrazione pubblica? Questa è la domanda chiave che ci fa capire perché si spendono 30 miliardi di euro. Va bene, noi domani il Parlamento sarà aperto alle 6.30. Chissà chi sbranderemo domani alle 6.30. Saranno i veri eroi quelli che si presenteranno con noi qui alle 6.30. Intanto giornale radio, rientriamo con la rassegna stampa. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui alle 7:19 minuti, pronti a leggere i giornali, cari ascoltatori. Allora, chi avremo oggi come ospiti? Poi alle 8:15 avremo il governatore del Veneto Luca Zaia della Lega, questo alle 8:15, poi alle 8:30 parleremo di questa vicenda politica, il voto palese, che sarà palese per la decadenza di Silvio Berlusconi al Senato. Con noi ci saranno Giulia Innocenzi, giornalista di servizio pubblico, e Simone Furlani, imprenditore, colui che ha fondato l'esercito di Silvio, certamente due persone che la pensano in maniera opposta su questa vicenda. Allora, intanto andiamo a scoprire cosa ci propongono i giornali che trovate in edicola. È giovedì 31 ottobre e annuncio già, saremo qui anche domani, in diretta. Dove andate voi, pontaroli debosciati che non siete altro? Noi saremo qua in diretta anche domani, 1 novembre. Intanto i titoli di oggi. Il Sole 24 Ore apre su rischio instabilità sullo spread, questo è il titolo, quindi i possibili già riflessi dopo la decisione politica sui mercati finanziari, mentre per quel che riguarda la politica, ecco la carrellata di titoli sulla vicenda Berlusconi. Per il Corriere della Sera, il voto sarà palese ma il governo resiste. Repubblica, sì al voto palese, governo a rischio. Quindi interpretazione diversa sulla tenuta possibile del governo Letta. La Stampa, Berlusconi, niente voto segreto. Per il Messaggero, voto palese, l'ira di Berlusconi. Poi i giornali, diciamo, orientati nel al centrodestra la vedono così, Libero, lo vogliono in galera, mentre il giornale, porcata palese. I giornali orientati a sinistra invece, l'Unità, nessuno può più salvarlo, mentre il Manifesto, decadence. Questo è il titolo. Mentre il Fatto Quotidiano apre su Alitalia. Alitalia rischia il crack, biglietti non garantiti. Questo è il titolo di prima pagina. Seduti sulla bomba è invece Avvenire con la Banca Centrale Americana continua a comprare titoli. Fed spinge sul dollaro debole, nell'Unione Europea bolla immobiliare. Dunque la situazione finanziaria difficile è il titolo di prima pagina di Avvenire. Voglio segnalare alcuni articoli che si concentrano sugli sprechi, sprechi di Stato, e quindi più che mai si alzi l'urlo, mani strette sul volante se siete alla guida, cari ascoltatori. Mi raccomando, fermatevi anche un attimo prima di leggere l'articolo che Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella scrivono sul Corriere della Sera in prima pagina. Si concentrano sul CNEL. C'è un'inchiesta della Corte dei Conti sul CNEL, questo ente nato tanti anni fa, racconta sprechi plurimi, questo in prima del Corriere. Noi siamo esenti dalle regole, non è vero, noi siamo esenti dalle regole, non è vero, noi siamo esenti dalle regole, non è vero. Per 19 volte il CNEL ha insistito nella sua pretesa di essere al di sopra delle leggi sulla distribuzione di incarichi e consulenze, battendo il record assoluto nella richiesta di pareri. Lo ha fatto con l'Avvocatura dello Stato, la Corte dei Conti, la Ragioneria Generale dello Stato, costituzionalisti, il Consiglio di Stato, l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. Per 19 volte tutti gli hanno dato torto, record bis, compresa l'ultima quando il presidente Antonio Marzano è arrivato a proporre agli avvocati dello Stato un ricorso alla Consulta. I vertici del CNEL invece stanno sulle spine perché c'è un'inchiesta della Corte dei Conti sul modo piuttosto singolare col quale sono state fatte certe spese. Queste spese che parlano di sprechi plurimi, questo nell'inchiesta della Corte dei Conti, che contesta che cosa? Consulenze, viaggi in tutto il mondo. Infatti il titolo dell'articolo, che poi continua l'intera pagina, pagina 13, è i consulenti d'oro del CNEL scelti contro 19 pareri. Dal 2008 al 2013, raccontano Stella e Rizzo, il CNEL ha distribuito 104 consulenze a singole persone per un ammontare di 2.262.000 euro, più 54 contratti di ricerca a società e centri studi per 2.271.000 euro, un totale di 4.533.000 euro e spiccioli. Poi soprattutto fanno fare un salto sulla sedia certe voci come gli 8.543.000 euro di non meglio precisate spese per l'espletamento delle funzioni istituzionali, oppure i viaggi, o ancora 562.000 euro per la retribuzione degli addetti al presidente e ai due vicepresidenti rigorosamente esterni alla pubblica amministrazione. E ancora, i viaggi appunto girano come trottole quelli del CNEL. Da quando è arrivato, per esempio, Marzano alla presidenza, 92 volte ha varcato la frontiera italiana, in media un viaggio ogni 33 giorni, e 147 missioni ufficiali all'estero, fatte soltanto a partire dal 2008, dirigenti e funzionari che hanno visitato praticamente ogni angolo del globo, a incontri come il punto di vista della società civile sull'impatto sulla crisi globale a Mosca, il seminario su donne e dialogo sociale a Salonicco, la conferenza Balancing Economic Growth in Asia a Bangkok. E insomma, tutte queste spese sono sotto l'attenzione ora della Corte dei Conti, Anche perché il CNEL, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, riceve 19,3 milioni di euro dal Tesoro. Per esempio, questa è la cifra ricevuta nel 2013. Vabbè, a proposito di sprechi, oggi, come detto, Panorama, ne abbiamo parlato con Maurizio Tortorella alle 6.30, fa una copertina dal titolo Sprechi di Stato, con questa cifra 30 miliardi di euro. Ci si concentra sulle spese che vengono fatte dalle pubbliche amministrazioni per comprare che cosa? Sedie, scrivanie, computer, servizi, le bollette telefoniche. E la domanda è molto semplice: ci si dovrebbe uniformare attraverso la centrale unico di acquisto, cioè la Consip, a dei prezzi standard? Perché alcune cose costano di più? Per esempio, perché la stessa sedia a due prezzi diversi dovrebbe costare 86 euro invece viene pagata da alcune amministrazioni a 124 euro? Perché per comprare una scrivania come questa, e sono tutte fotografate, le amministrazioni pubbliche dovrebbero per legge pagare 282 euro e alcune ne pagano invece 723 euro? Ebbene, così lo Stato spreca 30 miliardi. A parlare è Gustavo Piga, che è stato presidente della Consip e ora insegna economia politica all'Università Tor Vergata di Roma, e che racconta con cifre e cifre alla mano perché, scrive Panorama, lo Stato spreca 30 miliardi di euro perché nessuno controlla negli acquisti di cosa, sedie, telefonini, macchine, computer da tavolo e in genere si fanno dei rincari del 30, 34, ma anche fino al 176 euro, oppure il 333 euro al di sopra delle spese previste dalla legge, se ci si uniformasse ai prezzi stabiliti dalla Consip, vale a dire la centrale unica d'acquisto. A proposito di sprechi, non avete sciolto le mani dal volante, perché ho anche questa prima di mandarvi serenamente in pubblicità. Allora, alla Camera stipendi allineati verso l'alto, il Corriere della Sera racconta, pagina 11, con Lorenzo Salvia, questa ricerca che proviene dagli Stati Uniti, perché l'ha fatta la United for a Fair Economy, vale a dire un'organizzazione che a Boston si batte contro la disuguaglianza nella distribuzione della ricchezza. Pensate che lo spunto è che da questa ricerca nel 1940 un amministratore delegato guadagnava 14 volte più di un lavoratore medio. Ora la proporzione è 531 volte rispetto alla paga del lavoratore medio, quella di un amministratore delegato. Ci sono ovviamente anche casi dove la distanza, secondo questa società, è maggiore. La Fiat forse è quella più emblematica. Sergio Marchionne guadagna 1037 volte di più del suo dipendente medio. Comunque, questo è lo spunto per parlare anche degli stipendi dei dipendenti della Camera rispetto a quelli dei lavoratori medi. E allora, per capire il reddito medio degli italiani, racconta Lorenzo Salvia sul Corriere della Sera, pagina 11, reddito medio, al netto della nostra evasione fiscale record ovviamente, si ferma di poco sotto i 20.000 euro lordi l'anno, quasi la metà di un centralinista della Camera dei Deputati a inizio carriera. Perché poi gli scatti dei dipendenti della Camera, abbiamo parlato tante volte, sono impressionanti rispetto ai lavoratori del privato e del pubblico. Si arriva a guadagnare fino a 136.000 euro l'anno per chi è dipendente della Camera e lavora nella categoria operatori tecnici, cioè rientrano in questo gli centralinisti, gli elettricisti, pure il famoso barbiere di Montecitorio. Quanto lo vorrei intervistare, nessuno che mi riesce a fare intervistare il barbiere di Montecitorio. Comunque, quasi la metà di un centralinista della Camera dei Deputati a inizio carriera, questo è lo stipendio medio degli italiani, ed esempi ce ne sono ancora possibili. Gli oltre 400 assistenti parlamentari, cioè i commessi di Montecitorio, guadagnano in media come il direttore di una filiale di banca, eppure in generale non svolgono compiti molto diversi dagli usceri di altri simili uffici pubblici. Inoltre sono numerosissimi, 0,7 commessi per ogni deputato dopo il taglio voluto dall'attuale segretario generale, mentre 10 anni fa il rapporto era addirittura 1 a 1. E vabbè, poi ci sono i consiglieri parlamentari, 170, lo stipendio che ha in media lo stesso peso di quello di un primario ospedaliero, Ma a fine carriera loro arrivano a guadagnare fino a 350.000 euro l'anno, mentre il primario ha la responsabilità di un reparto, i consiglieri invece si limitano a svolgere attività di studio e ricerca o assistenza giuridico-legale e amministrativa. Tutto bene così? Chiede il Corriere della Sera? Non lo so. La domanda la pongo a voi. Sciogliete pure le mani dal volante. Rispondete durante la pubblicità. Rientriamo tra poco. 24 mattino. Ed eccoci qua allora, ed eccoci a parlare soprattutto come si concentrano tutti i giornali, l'apertura certamente, la questione politica, la approfondiremo anche noi alle 8.30, la questione politica perché? Perché ieri c'è stata la decisione di modificare il regolamento nella giunta per il regolamento al Senato e dunque sarà palese il voto per decidere sulla decadenza di Silvio Berlusconi. 7 membri del comitato per la giunta del comitato per il regolamento sono espressi per il voto palese, 6 per il voto segreto, il presidente che è Grasso non vota, e dunque 7-6 la decisione della giunta è modificare il regolamento. Voto palese, l'ira di Berlusconi, questo è il titolo dell'articolo del Sole 24 Ore con Barbara Fiammeri che dice lo descrivono furioso. Berlusconi, che non ha ufficialmente parlato, ma ovviamente è tutto denso di retroscena sui giornali, tantissime pagine, tantissime interviste, a cominciare per esempio dal ministro Gaetano Quagliariello, che parla al Corriere della Sera, intervistato da Fabrizio Roncone, pagina 2-3. Il titolo è: chi vuol far crollare tutto sappia che si rischia un'altra maggioranza. Dice Quagliariello: il governo non cade su una vicenda grave che riguarda il Parlamento, non cade poi anche perché non deve vincere il partito trasversale delle elezioni anticipate, che in questo momento possono convenire solo a Grillo e a Renzi, ma non certamente al centrodestra. Dice Quagliariello che nel PD vi sia anche chi sta lì a cercare di spezzare il ramo sul quale è seduto il governo, è chiaro a tutti. Ma comunque uno dei cosiddetti lealisti, vale a dire Quagliariello, dice: attenzione, non bisogna perdere la lucidità, la decadenza di Berlusconi arriverebbe comunque presto per una sentenza ingiusta. E comunque la questione politica è questa: tenere duro, e dobbiamo prendere atto però che il ruolo di Berlusconi resta carismatico, ma la sua posizione istituzionale è modificata, è un dato di fatto. Insomma, Quagliariello parla di quelle che sono le tensioni all'interno del Popolo della Libertà, ma anche all'interno del governo per questa decisione, anche se ufficialmente Letta ha detto: per noi non cambia nulla. È un po' difficile capire e pensare che davvero sarà così, perché sta di fatto che Berlusconi viene dato per arrabbiatissimo in tutti i retroscena che lo definiscono, dal furioso all'irato al deciso davvero a staccare la spina e far cadere dunque l'esecutivo. Come racconta Carmelo Lo Papa in prima pagina nel retroscena di Repubblica, l'articolo inizia in prima pagina poi continua a pagina 3, scrive Lo Papa: solo le insistenze dei mediatori, del solito Gianni Letta, cioè lo zio di Enrico Letta, lo hanno convinto in serata di mettere nel cassetto la più violenta delle note sfornate da Palazzo Grazioli. Nel mirino c'era il Partito Democratico, reo di aver sostenuto la battaglia per il voto palese in giunta insieme al Movimento 5 Stelle, ma soprattutto il governo di Letta e Alfano. E anche se è un Berlusconi furioso che ieri ha annullato un pranzo con Alfano e continua a dire: tutti questi signori mi avevano garantito che non sarebbe mai passato il voto palese, e invece, come al solito, eccoli. Tra l'altro, sul voto palese ci sono anche dei distinguo all'interno dello stesso Partito Democratico. Sentite per esempio Rosi Bindi, pagina 2 della Stampa, intervistata da Carlo Bertini: la Bindi e i tanti dubbi nel PD, forse era meglio non forzare. Tira un sospiro prima di rispondere Rosi Bindi, la più anti-berlusconiana tra i dirigenti del PD, neopresidente dell'antimafia, non riesce a nascondere le sue perplessità. E forse spinta dal suo nuovo ruolo istituzionale, dice: questa volta non avrei forzato il regolamento. Ma per esempio anche Antonio Polito, che è editorialista del Corriere della Sera, ma è stato anche un senatore del Partito Democratico, scrive in prima pagina del Corriere, il titolo dell'editoriale è: costumi decaduti. dice riguardo alla decisione di cambiare il regolamento: di certo non è una scelta saggia, anche chi con ottime ragioni ritiene che sia la legge e solo la legge a sancire la decadenza di Berlusconi in seguito alla sentenza che l'ha condannato per frode fiscale, converrà che si è regalato un formidabile argomento a chi invece sostiene che si tratta di una rivalsa politica. Perché mai infatti cambiare la prassi del Senato se si sta solo applicando la legge? È una ritorsione contra personam per punire il re delle norme ad personam? Non si vede che in questo modo si allunga soltanto una commedia politica che dura ormai da troppo tempo e si indebolisce lo sforzo di chi come Letta sta tentando di tenere separato l'affare giudiziario dalla sorte del governo? Insomma, queste domande sono quelle che pone Antonio Polito in prima pagina del Corriere della Sera. Sta di fatto che Alfano, ancora secondo il retroscena della stampa a pagina 3 a firma Amedeo La Mattina, gela il Cavaliere dicendo col voto anticipato vince Renzi, e quindi cercando di frenare le ire di Berlusconi che sarebbe pronto a far cadere tutto, mentre i giornali di destra tuonano come Libero: questi lo vogliono vedere in galera. Oppure il giornale di Alessandro Sallusti firma con il direttore appunto un editoriale di prima pagina in cui si chiama La responsabilità Alfano. Il titolo è Porcata palese, questo è il titolo di prima pagina del giornale, e conclude il suo editoriale Alessandro Sallusti in prima pagina: ora Alfano deve scegliere, capo della mini congiura o custode orgoglioso di una storia che ha anche la sua? Mi auguro scelga la seconda via, l'unica che sa di quid. Così Alessandro Sallusti. Vabbè, diciamo che i retroscena sono tanti, i racconti sono tanti, ci sono le interviste anche a Linda Lanzillotta di Scelta Civica, colei che è stata l'ago della bilancia, visto che fino all'ultimo momento non si sapeva cosa avrebbe votato in giunta. Erano in 13 a votare, alla fine erano 6-6 e lei ha votato come settima per il voto palese, quindi è stata certamente decisiva. Così le manovre opache non saranno possibili, così dice Linda Lanzillotta, intervistata dal Corriere della Sera da Daria Gorodischi, ma viene intervistata anche dall'Unità. C'è un'intera pagina di Aldo Cazzullo che intervista Pier Ferdinando Casini, e vabbè, insomma, la vicenda non è finita, ne parleremo alle 8.30, ma non è finita, nel senso che c'è una possibilità, secondo alcuni, che 20 senatori si appellino alla Costituzione e chiedano anche in aula la non violazione dell'articolo 25, che non certo conosco a memoria, e che quindi ripropongano il voto segreto. Su questo si dovrebbe esprimere il presidente Grasso, dovrebbe forse convocare nuovamente la giunta, che però si è già espressa a dire che il voto deve essere palese, quindi molto probabilmente respingerà anche questa richiesta. Telenovela, pagina e puntata numero 5922, e chissà se ci sarà una fine. E intanto la politica si interroga anche sul Partito Democratico. Oggi sia Corriere che Repubblica si concentrano su cosa? Su queste elezioni che stanno regalando anche qualche tensione, per dire così. Leggete due titoli, uno sul Corriere della Sera, pagina 9: sberle, ricorsi, denunce, il caos dei congressi del PD, tensioni da Torino a Catania, i segretari locali vicini a Cuperlo sono avanti sui renziani 49-25, ma ci sono delle situazioni con, appunto, ad Asti rilasciate 341 tessere in 4 ore, a Roma boom di iscrizioni in alcuni circoli, a Caserta rinviata l'elezione del nuovo segretario provinciale, a Catania è stata bloccata, da Roma è stato mandato Nico Stumpo per controllare che succede, a Napoli esponenti del partito hanno chiesto chiarezza sulle procedure, ad Avellino 4 dei 5 candidati hanno denunciato casi di tesseramento gonfiato, a Teramo poco più di 3.000 iscritti nel 2012, inviate dalla direzione 9.000 schede bianche, a Rovigo stop al congresso provinciale, denunciate anomalie in 7 circoli su 10. Insomma, che succede all'interno del Partito Democratico? Addirittura a Roma è finita una discussione con due che sono stati mandati all'ospedale. Morassut, considerato uno degli inviati parlamentari del PD, già segretario regionale del Lazio, assessore a Roma e inviato come osservatore a Lecce, dice, intervistato dal Corriere: sono preoccupato, Io userei altre definizioni, altro che assalto delle tessere. Ciò che accade sembra un'orgia per il potere, un delirio di competizione tra cordate interne, altro che correnti. Magari qui siamo di fronte a cordate che nei momenti delle nomine per gli incarichi istituzionali si saldano. Insomma, e anche Repubblica fa un articolo a dire: tessere triplicate a Treviso, soldi a Torino, rissa a Roma, bufera sul voto nei circoli del Partito Democratico. Insomma, delle contestazioni, un bel esempio di risse in piena regola. Mauro Meazza, buongiorno, il Sole 24 buongiorno, Ore, eccoci buongiorno. Qua. C'è meno rissa, immagino, sul Sole. Diciamo che lo osserviamo ovviamente con attenzione, magari ecco, non è un argomento tra i quelli più in evidenza sul giornale di oggi, questa turbolenza un po', ma uno spogliatoio di una squadra di calcio, di quelle che pareggiano in casa, sembra un po' così. Sembra un po' così, di quelle squadre è un po' così, ma guarda, io non lo so a chi ti riferisci, noi puntiamo alla salvezza e ci siamo vicini, il nostro obiettivo del Milan, la salvezza, è a un passo, è un punticino, è fatto anche ieri. Noi diamo un po' più evidenza ad altre vicende, non so, oggi tra l'altro c'è, e lo riferiamo nella nostra pagina dedicata alle questioni del lavoro, questa concomitanza dello sciopero del panino e lo sciopero dei bancari. Sì. Non mi sembrano due elementi trascurabili, con tutto il rispetto, no, anche per le anche tematiche perché politiche, le nonne dicevano una volta vai in banca e il posto è assicurato a vita. Adesso sciopera chi lavora in banca. Sì, perché c'è una disdetta di contratto dell'estate scorsa, noi l'abbiamo seguita molto attentamente in queste settimane col Sole 24 Ore, ne riferiamo anche oggi, ma oggi il titolo un po' sorpresa è anche questa disdetta della FIPE, no? Del contratto, anche lì per appunto gli addetti alla ristorazione, ai bar eccetera, oggi giornata di sciopero, quindi due elementi, tra l'altro poi nell'impaginazione i lettori sfogliando il Sole noteranno che questa pagina sugli scioperi si confronta con un titolo su quanto la Slovacchia sta facendo per attrarre le nostre imprese. Ecco pure la Slovacchia ci dovevamo avere che ci fa concorrenza per attrarre le imprese. Comunque ti do una buona notizia, stanno preparando il decreto per permettere di pagare le imposte in 120 rate, dovevano farlo per settembre. Ieri però, lo scriviamo oggi sul Sole 24 Ore, hanno risposto in Parlamento, siamo quasi pronti. Quindi una buona notizia, la vediamo buona, dovevano farlo per settembre, però la stanno facendo. Insomma, ci siamo quasi. Guarda, tornano gli stranieri, oggi c'è Casa 24, come sai, come tutti i giovedì, e tra le altre cose, a parte alcuni consigli utili sul riscaldamento, come risparmiare un po' di soldi dalla bolletta, ma tornano gli stranieri, sono interessati a castelli, casali, eccetera, eccetera, quindi torna l'interesse. Accidenti, e chi è che compra casali? Evidentemente qualcuno che c'ha i soldi. Il bond della Coca-Cola, 5 miliardi di bond stanno per lanciare, lo scriviamo in finanza, tu hai 5 miliardi, Alessandro. No, però magari se ci mettiamo io e te possiamo. Tu e io insieme sì, in un 20 secoli dovremmo riuscire ad arrivare. Dovremmo farcela. Intanto Mauro, grazie, ci sentiamo. Domani ci sentiamo o ponteggi? Io sono sempre disponibile, sempre leggendo il Sole 24 Ore. Vabbè, certo, va bene, allora ti chiameremo alle 3 di notte, così se sei sempre disponibile. Questa la paghi, alle 7:46 minuti andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. E allora sono le 7:48 minuti, intanto una notizia che ha solo Repubblica in prima pagina che riguarda il Ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri, il titolo è questo: i ligresti alla Cancellieri fai uscire Giulia dal carcere. Di che si tratta? C'è un'inchiesta a Torino nella quale sono finite le telefonate con il guardasigilli che attivò il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria per il caso di Giulia Ligresti che era in carcere. La persona che potrebbe fare qualcosa per Giulia è il ministro Cancellieri, così inizia l'articolo di Ottavia Giustetti. È il 17 agosto e la compagna di Salvatore Ligresti, Gabriella Fragni, intercettata, parla al telefono col cognato Antonino Ligresti e trascina il ministro della giustizia negli atti di un'inchiesta su Fonsai che è costata l'arresto all'intera famiglia del finanziere siciliano. Che succede? Secondo questa inchiesta il ministro della giustizia risponde e si attiva attiva alla richiesta di dire fai qualcosa per Giulia Maria Ligresti che soffre di anoressia ed è in carcere. Il 28 agosto, dopo che il ministro della giustizia si è interessata della sua situazione in cella, finalmente Giulia esce dal carcere. Non smentisce il ministro Cancellieri, sentita dal procuratore aggiunto Vittorio Nessi, dice Repubblica, si è trattato di un mio intervento umanitario assolutamente doveroso in considerazione del rischio connesso con la detenzione. E dunque Cancellieri e l'intervento per Giulia Ligresti in cella non mangiava più, chiesi umanità, e cioè telefonai a due persone responsabili del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Francesco Cascini e Luigi Pagano, e chiedendo che facessero quanto di loro stretta competenza per la tutela della salute dei carcerati. Ma certo c'è la polemica, perché insomma, racconta Repubblica, c'è una vicinanza tra il ministro e la famiglia dell'ingegnere Ligresti, un fatto noto visto che anche il figlio della cancelliera Pier Giorgio Peluso è stato dirigente della compagnia assicurativa fondiaria SAI. E quindi insomma le polemiche però del perché di questo intervento giustificato con motivi umanitari da parte di Anna Maria Cancellieri per far uscire dal carcere Giulia Ligresti. Vabbè, vabbè, vabbè. Allora, si diceva dei tagli sul Sole 24 Ore. Cottarelli, che è il nuovo commissario alla Spending Review, alza l'asticella, pagina 9, si punta già a delle cifre. Secondo il Corriere della Sera, con Italia la spesa 3-4 miliardi di imposte in meno. C'è il piano di Cottarelli, che anche per quel che riguarda la Repubblica invece, e l'articolo lo trovate a pagina 13, promette rivedrò le spese di tutti anche alla RAI. Vabbè, ma molto colpito la storia che trovate un po' ovunque da giorni su queste due baby squillo 14-15 anni ai Parioli a Roma, con anche coinvolta una delle mamme che secondo l'accusa sfruttava la figlia. E sentite incredibilmente cosa avrebbe detto all'interrogatorio, raccontano Francesco Salvatore e Maria Elena Vincenzi a pagina 18 di Repubblica. Ho detto a mia figlia i soldi ci servono, ma non avevo capito che si prostituiva. La mamma arrestata al GIP dice pensavo solamente che spacciasse cocaina. E ci servivano i soldi, era fallito il nostro bar e quindi ho detto ho bisogno di te, ho bisogno di quei soldi, ho bisogno dell'aiuto. E insomma, però la questione è questa. Ora si scava anche nel degrado, sia il Fatto Quotidiano a pagina 12 pubblica le intercettazioni tra il cosiddetto sfruttatore e la donna che è stata coinvolta in questo giro di prostituzione. Si parla di tariffe, 1.000 euro a notte le tariffe delle baby escort, lo scandalo ai Parioli. Uno degli arrestati al telefono spiega il tariffario: 250 euro per un'ora, 500 per due, i clienti pagavano anche per le spese e viaggi, mentre il Quotidiano Nazionale mette addirittura le intercettazioni o comunque gli sms scambiati tra le due definite lolite, queste due ragazzine, e gli sfruttatori. Leva un po' di soldi al panzone, questo è il titolo di pagina 14, lolite dei Parioli, i messaggi shock, quando si è indagato anche sul telefonino sequestrato di queste ragazzine e si sono trovati messaggi di scambio con gli sfruttatori: vi ha dato 300 euro, ci vediamo domani, questo vi vuole offrire una vacanza a Candy 5 giorni, ho chiesto 1000 euro al giorno, lui 500, trovate una via di mezzo, o ancora questo è un brutto panzone, levagli due piotte. Questo nell'articolo di Bruno Ruggero, davvero un viaggio nel degrado che credo non sia finito ma sia solo agli inizi. Va bene, siamo alla conclusione, al momento della carta costa, al momento dell'articolo più inutile scovato sul giornale, mio insindacabilissimo giudizio. Oggi vince Repubblica, che dedica un quarto di pagina, pagina 7, con Francesco Bei, di solito impegnato nei retroscena della politica, a raccontare la politica italiana. Fa un quarto di pagina sulla seguente notizia: Silvio e la Pascale si sono sposati ad Arcore. È la testimonianza di Maristel Polanco, rilasciata un giorno da Pecora. E Maristel Polanco che dice: sono già sposati, non lo sono per il civile, ma Silvio ha una chiesa in casa sua, lui lo fa lì e non lo sa nessuno. E come, si sono sposati? Sì, sì, mi hanno anche invitato al matrimonio, l'8 o il 9 ottobre, non ricordo, ma dovevo partorire, stava nascendo mio figlio. e ancora il bunga bunga, sì, continua, non finirà mai, finché c'è Silvio, c'è bunga bunga. E poi, ma sì, la Pascale è innamorata, ma chi se ne frega di tutte queste cose, non se ne può più, il paese non ne può più di queste cose, ma non si capisce, e la carta continua a costare, amici miei. C'è il giornale radio, rientriamo con Luca Zaia, governatore del Veneto, e poi parliamo del voto palese per la decadenza a Berlusconi. 24 mattino. Eccoci qui alle 8:19 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, spesso si parla di sprechi, e lo fanno anche oggi i giornali, soprattutto in uno dei settori più delicati, quello della sanità. Ieri a Roma si sono visti i presidenti di molte regioni e per affrontare questo settore delicato, e oggi per esempio il titolo del giornale, di un articolo, è Battaglia tra Nord e Sud per i costi della sanità. Allora, noi abbiamo qui un governatore, un presidente di una regione del Nord, si tratta di Luca Zaia, governatore del Veneto, della Lega. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Presidente. Grazie per l'ospitalità. Grazie a lei. Senta, lei propone la soluzione che dice in realtà si tratterebbe di applicare una legge dello Stato, cioè i cosiddetti costi standard. Ne abbiamo parlato anche 2 settimane fa con il ministro della Salute Lorenzin, che dice nel giro di 2 mesi ci saranno. È così davvero secondo lei, oppure non ci saranno mai? Beh, guardi, la verità è che i costi standard sono il frutto di un grande investimento fatto negli anni. Il governo Berlusconi li lasciò in eredità a Monti. Per i cittadini va spiegato che si è fatto un lavoro immane per codificare tutto quello che è l'acquisto di beni o servizi e, diciamo, i costi puntuali del mondo della sanità. Per dire, un pasto nel mio Veneto costa 6,50 euro, un pasto erogato in ospedale, in alcune regioni d'Italia viene a costare fino a 60-80 euro. Addirittura? In quale regione costa così tanto? Guardi, qui bisogna ragionare di latitudine, più a sud si va, più costano, più ci sono costi che comunque sono evidenti e sono anche imbarazzanti. Il che vuol dire che poi, se noi ragioniamo di costi standard, il risparmio annuale applicandoli, cioè chiedendo a tutti di vivere in maniera virtuosa, sarebbe di circa 30 miliardi di euro all'anno. E sostanzialmente sono 30 miliardi di sprechi, ed è quello che noi chiediamo. Ma senta, Zaia, cioè lei mi sta dicendo che questo lavoro, cioè la codificazione di tutti i costi, è già stato fatto dal punto di vista, cioè si sanno già quali sono i costi standard per ogni tipo di settore, ogni tipo di spesa prevista. E perché non vengono applicati? Ma lo si sa, sì, addirittura c'è una società del Ministero delle Finanze che ha appunto lavorato per anni a questo, c'è proprio una struttura di tecnici, di grandi esperti, ma la verità è che non si applicano, perché se tu vai a chiedere ai siciliani di rinunciare ai loro 22.000 forestali e di far come i veneti che ne hanno 400, evidentemente qualcuno si va in esitazione, ed è un po' la storia dei 2.000 miliardi di debito pubblico italiano, cioè a forza di pacche sulle spalle, di dare ragione a tutti, e alla fine questo è il risultato. Allora io dico, si possono applicare in maniera anche oculata e con un soft landing, cioè con un atterraggio morbido. Diamo a tutti la possibilità di uscire magari dai casini che si sono ritrovati, perché mi rendo anche conto che molti governatori, anche al sud, hanno ereditato delle situazioni disastrose. Penso a Caldoro, Stefano Caldoro, sta facendo un ottimo lavoro per la sanità, però è altrettanto vero che ha ereditato una situazione molto imbarazzante. In campagna. Dall'altro però c'è anche da dire che bisogna fissare oggi la pietra miliare, cioè dire da oggi si applica. Ecco, ma lei ha posto anche un limite, perché ho letto una sua dichiarazione a dire siamo pronti a, come dire, vengano applicate queste cose, aspettiamo, se no tra un po' ce ne andiamo. Mi spieghi che vuol dire questo ce ne andiamo? Ma guardi, è già noto a tutti i miei colleghi che la posizione più intransigente ce l'ha sottoscritto, nel senso che noi non possiamo più, come sanità virtuosa che ha fatto investimenti, guardi, le do un dato, noi immaginiamo l'ospedale del futuro come un ospedale senza letti, l'ospedalizzazione media del Veneto è di 7 giorni, cioè mediamente un paziente resta 7 giorni in ospedale da noi sul letto, e in giro per l'Italia si arriva ai 30 giorni e si superano anche questi 30 giorni. Ma tu arrivi a 7 giorni, 5, 4, 3, forse anche meno ancora, investendo in professionalità, in alte tecnologie, cosa che tu fai perché hai saputo anche ristrutturare, sì, il Veneto, ha chiuso molti piccoli ospedali, ha puntato sull'eccellenza. quindi il taglio orizzontale oggi per noi significa non riuscire più a erogare servizi e per gli spreconi sprecare un po' di meno, ma continuerà a sprecare. Senta, politicamente però la Lega chiede a gran voce da tempo, insomma, che cada il governo, che questo governo no, e questo non sarebbe un ostacolo poi alla realizzazione di questo progetto di costi standard, dovesse cadere il governo? Ma guardi, abbiamo provato tutte le soluzioni, abbiamo provato il governo di centrosinistra, poi il governo di centrodestra, poi il governo di salute pubblica versione 1 Monti, poi il governo versione 2 di salute pubblica Letta. Il dato di fatto è che cambiando l'ordine dei fattori il prodotto non cambia, nel senso che questo paese non ha bisogno di invenzione di nuove tasse, pensi, se ne sono inventata una che si chiama Tasi. In Veneto Tasi vuol dire taci. E paga, quindi, Tasi e paga. Tasi e paga, oppure ci aggiungono anche qualche altra parola molto più da slang veneto che è tipica, no? E per dire cosa? Che se tu applichi i costi standard hai sostanzialmente risolto gran parte del problema, perché un gettito di 30 miliardi liberi tutti gli anni da questi sprechi significano promozione dell'economia, cuneo fiscale, riduzione della pressione fiscale. Però in questo non deve fare anche un mea culpa la Lega stessa, perché in quei governi che ha citato c'eravate anche voi prima col governo Berlusconi. Ma guardi, mea culpa lo debbono fare assolutamente tutti. C'è anche da dire, me lo lasci dire, che Berlusconi si dimise nel novembre 2011 lasciando comunque in eredità 6 decreti attuativi del federalismo e i costi standard, proprio in virtù della pressione che all'interno del governo ha fatto la Lega. Voglio ricordare che la Lega in quel governo pesava per circa un 8-9% nazionale alle elezioni, cioè non è che nell'assemblea del condominio aveva il 51%. Sì. Nonostante questo, se oggi si parla di costi standard è perché quattro magari rotti localisti scesi dal nord hanno voluto portare l'idea della via pubblica. L'idea del però ce ne andiamo, cioè concretamente cosa vuol dire? Perché lei ha usato questa espressione, aspettiamo anche i supplementari, aspettiamo i calci di rigore, poi ce ne andiamo, cioè in concreto cosa significa? Ma perché guardi, io dico sempre prima il Veneto, per noi significa che prima vengono i nostri cittadini, io non posso mettere a repentaglio investimenti di anni nella sanità se non si vuole puntare alla virtuosità e a quindi, livello nazionale. E quindi quindi ci alziamo dal tavolo, nel senso che io sono convinto che poi i miei colleghi governatori alla fine chiuderanno su una soluzione di applicazione immediata dei costi standard, però se così non fosse, se volessimo ancora finanziare le regioni in base alla loro spesa storica, vorrebbe dire che continuiamo a premiare Caino e non premiamo Abele, e così non funziona. Allora, oggi ancora lì ho letto la Padania, ci sono le critiche per esempio sulla legge di stabilità, soldi per la Salerno Reggio Calabria, soldi per i lavoratori socialmente utili a Napoli e Palermo, insomma soldi al sud e non al nord. Ha visto che arrivano anche 400 milioni con un decreto salva capitale per ripianare parte del buco di bilancio del Comune di Roma. Lei da sud a nord come la vede? Guardi, innanzitutto io non voglio sempre fare una questione di Lega, ma di buon senso, perché penso che i cittadini abbiano tutti un cervello a prescindere dalla loro idea politica, quindi non è una questione solo di Lega. I cittadini che ragionano sanno benissimo che le prime vittime della mala gestione romana sono i cittadini di Roma, sono loro che poi pagano il conto, lo pagheranno con l'IRPEF, lo pagheranno su tante partite e lo pagano parimenti anche tutto il resto dei cittadini italiani. Vedendo questa prima erogazione, 400 milioni sono una goccia in un mare d'acqua, perché la voragine è grandissima. E c'è da chiedersi perché c'è stata questa voragine, e c'è anche da introdurre un nuovo elemento, che è quello anche dell'azione di responsabilità, cioè chi crea i buchi, paga o non paga per la mala gestio? Una volta verificata la mala gestio, si va a chiedere, presentare il conto a qualcuno, o perché siamo enti pubblici non lo si presenta mai? Ma perché la Lega chiede anche addirittura la sfiducia a Saccomanni? Pare sia pronta, che vuol dire anche, immagino, un giudizio sulla legge di stabilità totalmente negativo da parte vostra? Guardi, io le esprimo una mia personale considerazione, cioè massimo rispetto per il ministro Saccomanni, però è altrettanto vero che lui è chiamato a guardare e a vigilare sui conti dello Stato e a fare in modo che questi quadrino. Non si possono pensare, non si può pensare che l'unica via sia quella di inventare nuove tasse, o peggio ancora, come è accaduto e sta accadendo in queste ore con la legge di stabilità, pensare che il togliere le detrazioni fiscali non significhi aumento della pressione fiscale. Noi abbiamo una pressione ormai fiscale che vale il 68,5% contro una media europea del 46%, e una carenza che è qui vicino a casa a noi del 25. Lei capisce che la vera via di uscita è trovare risorse fresche, ma non mettendo le mani nelle tasche dei cittadini, ma semplicemente tagliando gli sprechi. Ma questa Tasi non proprio. Ma com'era che slang alludeva Veneto sul Tasi? Ma guardi, glielo posso dire perché da noi non è una parolaccia, non è assolutamente uno slang normale. Da noi si dice Tasi Mona, che vuol dire stai zitto. Babbeo, cioè, Mona è intraducibile. Mona in Veneto. Per voi è una parolaccia, sì. Per noi è una roba intraducibile. Senta, Zaia, mi lasci anche a ricordare, sì. Mi perdoni, siccome abbiamo dei licenziamenti, per noi è messa in discussione la nostra Fiat che è Electrolux. In questa legge di stabilità invece ci vorrebbe il coraggio di dare un segnale a tutte queste aziende straniere che dicono non che dismettono le loro linee produttive perché il mercato non c'è più. Electrolux ci ha annunciato licenziamenti su 4 regioni, Veneto, Friuli, Venezia, Giulia, Lombardia ed Emilia Romagna, dicendo che le nuove linee verranno spostate in Ungheria / Polonia, vuol dire in Europa. E noi non possiamo pensare che il costo di un lavoratore che costa 4 euro all'ora lì possa essere il vantaggio competitivo rispetto a un lavoratore. Ma infatti lei ha detto è come un po' la nostra Fiat, ma lei sarebbe pronto, che ne so, a picchettare o occupare una strada come penso facciano i dipendenti di Electrolux? Guardi, i dipendenti di Electrolux lo hanno fatto, io non mi sento di condannarli, a parte il fatto che l'ho fatto molti anni fa, mi sono preso anche un avviso di garanzia per blocchi stradali, ma l'ho fatto per una giusta causa. E dico anche che la protesta, se è civile e se nell'alveo della democrazia e soprattutto in questo caso anche per svegliare le coscienze, serve. È assolutamente utile. Bloccare una strada, insomma, lei che è il governatore di una regione, cioè, crea un disagio, interruzione di servizi. Ma guardi, ci sono tante forme di protesta e quel giorno, un paio di giorni fa, è stata bloccata una strada, è stata l'esasperazione dell'annuncio e della doccia fredda. Io so che i lavoratori di Electrolux, che per noi significa Electrolux ex Zanussi, ex Doppas, quindi è un'azienda storica, certo, della mia provincia, del Coneglianese, e sono lavoratori che sanno benissimo cos'è la civiltà. Vanno aiutati e si possono aiutare all'interno della legge di stabilità. Ancora due domande, governatore Zaia. Prego. La prima, la passione alla vicenda Berlusconi della decadenza? Ma guardi, io ho altri problemi con sì, questo immagino, che ho, questo immagino, però lei sta parlando con un governatore che ha 170.000 disoccupati e un ragazzo su 4 non trova lavoro e 2 sono precari. Io tutti i giorni mi sveglio con questo pensiero e incontro gente che ha problemi e questi sono i problemi che abbiamo in Veneto. Ma non la appassiona, però la tenuta del governo potrebbe dipendere anche da questo la interesserà. Guardi, questo governo non sta producendo nulla per il mio Veneto e questo è il dato di fatto, non ho dei risultati concreti. E io ho 600.000 imprese in Veneto, voi le seguite, spesso li intervistate, i nostri imprenditori, e i nostri imprenditori chiedono semplicemente di poter lavorare, di poter fare, di poter internazionalizzare e di non avere l'ufficio complicazioni e affari semplici che è rappresentato da Roma. Questo governo, per me, che ci sia o non ci sia, non cambia nulla, per cui non è che faccio parte sempre della categoria di bastian contrari che dicono a casa perché sì, non hanno il mio colore politico. In tutta onestà, ho creduto al discorso di insediamento del presidente Letta e con altrettanta coerenza le dico che ad oggi quel discorso non è servito a nulla. Non ci crede più. L'ultima domanda è: si candida lei alla segreteria della Lega il 15 dicembre oppure no? Ma guardi, io ho solo una parola e l'ho data nel 2010 ai veneti, mi occupo della regione H24, E quindi non si candiderà. E non credo che la dispersione di energie tra enti, politica, altro serva in questo momento ai miei cittadini. E ha deciso chi appoggerà, ha già deciso chi appoggerà tra i candidati? Ma guardi, più che decidere chi appoggerò, varrebbe la pena di capire chi si candiderà, a me questo momento sì. Non abbiamo candidato. Questo sì, questo certamente. Va bene, intanto la ringrazio, grazie Luca Zaia per essere stato con noi, Presidente del Veneto. Noi invece dopo la pubblicità, qualche minuto, parleremo di questa vicenda politica, Berlusconi, voto palese, che ne pensate? È una forzatura del regolamento oppure è giusto così? 24 eccoci mattino. Qua, eccoci, 8:38 minuti. Allora, io lo dichiaro pubblicamente, lo ammetto, a me personalmente, Alessandro Milan, di questa vicenda decadenza Berlusconi ormai veramente non frega più nulla, proprio lo dico molto onestamente, ma giustamente è un tema dibattuto sui giornali, 800 24 00 24 è il numero per intervenire, è un tema che potrebbe far anche cadere il governo, insomma è inutile negarlo, e allora siamo qui a parlarne. Voglio salutare Giulia Innocenzi, buongiorno. Buongiorno Giulia di Servizio Pubblico, come va? Tutto bene? Stasera voi ne parlerete a Iosa, immagino, no? Sì, stasera avremo Nitto Palma in studio, quindi sicuramente avrà modo di rispondere sul tema che, giustamente come dici tu, ormai ha un po' stancato tutti, ma siamo costretti a parlarne. Ma appunto è questo, chissà perché siamo costretti. Comunque Nitto Palma, ex ministro della giustizia, falco berlusconiano, come chissà se è un falco la definizione gli piace. Simone Furlan, buongiorno, imprenditore, benvenuto. Ideatore, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Ideatore del cosiddetto esercito di Silvio, e lei si considera un falco? Lei ha viste queste definizioni? Ma io, guardi, ho detto l'altro giorno che è arrivato il momento di parlare meno dello zoo e di ritornare tra la gente. Comunque ci piace definirci aquile, vogliamo volare un po' più in alto. Questo è un discorso, secondo lei, che interessa alla gente, questo, visto che si vuole parlare? Credo interessi molto poco alla gente in generale, però credo sia un metro di misura per capire quanto sia, diciamo così, politicizzata la questione, insomma, soprattutto per quanto concerne quello che è successo ieri. È politicizzata. Allora, Giulia Innocenzi, sai che molti quotidiani, oggi per esempio Antonio Polito sul Corriere della Sera proprio la pone così, e lui è stato anche un ex senatore del Partito Democratico, oppure Rosi Bindi sulla Stampa a dire forse è stato un errore. Ecco, Polito dice, ma che è questa cosa? È fare una norma contra personam proprio per colui che l'opposizione ha spesso accusato di essere l'uomo delle norme ad personam, cioè si vuole dare pan per focaccia dicendo cambiamo il regolamento per Silvio Berlusconi, Giulia? Non vedo nessun cambio del regolamento, sinceramente, perché il regolamento del Senato non prevede una fattispecie specifica per quanto riguarda la decadenza di un senatore per il caso di Berlusconi, quindi i senatori, riflettendo, hanno deciso di guardare al regolamento della Camera, che invece sul voto sulla decadenza prevede un voto palese. E poi finalmente speriamo che questo voto ci sia, perché poi ora non è scontato, ancora non è stato calendarizzato questo voto. Quando il PDL dice che si sta facendo tutto di fretta, io invece penso esattamente il contrario, che noi siamo costretti a parlarne proprio perché Berlusconi e i suoi stanno facendo di tutto per allungare i tempi, tenendo in ostaggio il Paese. Noi dovremmo parlare oggi, per esempio, della legge di stabilità, ma invece dobbiamo parlare della decadenza di Berlusconi perché stanno facendo di tutto per non far votare il Senato. Cioè, se fosse stata una cosa automatica, legge, condanna, applicazione della legge e via, in due secondi si risolveva il problema. Però perché dice non hanno cambiato il regolamento? Cioè, sarebbe la prima volta nella storia in cui non si possono alzare 20 senatori a dire si vota in maniera segreta, cioè è una novità assoluta. Ora il presidente Grasso deve decidere il da farsi. In realtà, come spiega la Milella oggi su Repubblica, dipende da cosa c'è scritto nel testo che arriva al Senato, quindi se ci sono riferimenti costituzionali, se poi questo testo deve tornare in giunta oppure rimanere in aula. Infatti adesso il PDL ha gli occhi puntati su Grasso. Il punto però è che il Senato dovrebbe semplicemente prendere atto della condanna penale, perché noi non ci dobbiamo dimenticare, qui c'è una condanna per frode fiscale terzo grado. Dovrebbe semplicemente prenderne atto, anzi non saremmo dovuti arrivare a questo punto, Berlusconi avrebbe dovuto prenderne atto e semplicemente lasciare il Parlamento. Lasciare tutto, insomma. Però la vicenda Simone Furlan ha visto, si può dire politicizzata, ma poi è la vicenda e la storia di Silvio Berlusconi, poi ognuno la guarda dal proprio punto di vista e sono punti di vista agli antipodi. Lei dice invece, Furlan, immagino, è proprio il contrario, cioè cos'è? Guardi, un attacco personale a Berlusconi? A me sembra intanto che la Innocenzi, come sempre, stia mistificando la verità, come le hanno insegnato Santoro e Travaglio, perché dal 48 a oggi sono state votate 6 decadenze di senatori, sempre fatto con voto segreto. Addirittura in un caso questo signore, questo senatore, perché mediamente ci mettevano 14 mesi per votare la decadenza, addirittura in un caso c'è un senatore che ha fatto in tempo 2 anni a scontare tutta la pena, e quando è arrivato il momento di votarla hanno detto beh, ma l'ha già scontata, quindi può rimanere senatore. Quindi nel caso in questione c'è questa solita volontà di correre dopo un processo che peraltro in un anno ha visto dal primo grado addirittura arrivare la sentenza in Cassazione e rideterminare la pena. Oggi c'è la fretta di far decadere Berlusconi. Ma scusi, Fretta, lei non trova che l'anomalia sono, non so, Previti che sta 2 anni prima prima che si prenda la decisione, o altri nomi, adesso Previti me lo ricordo, altri no. Cioè l'anomalia non era prima la lentezza, Furlan? Ma allora, sicuramente la lentezza è una questione da condannare, però dovete dare atto sul fatto che se la giustizia funzionasse come funziona per Berlusconi, in un anno noi passiamo da un primo grado a una addirittura cassazione e rideterminazione della pena, e si vuole farlo decadere immediatamente. A me sembra oggettivo che è politica la questione, perché Se dal 48 a oggi non si è mai votato con voto palese, non vedo perché questo debba accadere proprio su Berlusconi. E mi permette di dire solo una cosa: quello che mi ha fatto davvero più, se vogliamo, mi ha sorpreso, è stata la conferenza stampa dei 5 Stelle, sì, che finalmente hanno potuto mettersi una spilla sul petto e dire: è nostro il merito di questa cosa. Sì, perché hanno chiesto loro la modifica. Sì, ma guardi, tristezza che un movimento come il 5 Stelle, che è andato in Parlamento dicendo che voleva stravolgere questo paese e fare davvero le cose importanti, che io condivido alcune per le imprese, per le famiglie, dico che si appunti al petto questa cosa, cioè, questa cosa qua, guardi, è triste, è triste. Giulia, qua l'accusa di mistificare, vabbè, ma adesso voto palese o no, l'accusa. Io andrei oltre, anche perché in realtà, per esempio, per l'arresto di Lusi c'è stato il voto palese, quindi insomma ne potremmo parlare tanto. In realtà non avevo sentito Furlan né altri quando la Severino è stata applicata 37 volte, anche per esempio per Iorio, l'ex presidente del Molise, dire che questa legge Severino fosse incostituzionale, che non bisognava applicarla per le condanne penali perché altrimenti si parlava di retroattività. Diciamo che ogni volta che c'è in mezzo Berlusconi arrivano pagine e pagine di nuove teorie che fino al giorno prima non avevamo sentito. Sì. A me la situazione sembra così semplice e così lineare che... Ma quando, diciamo, quando c'è Berlusconi di mezzo niente è semplice, questo è un dato di fatto. Comunque, dopo le informazioni sul traffico, è vero, voto palese, non voto palese, questa cosa è la decadenza veloce, breve, lunga, la retroattività della legge Severino, no, agli italiani questa cosa non interessa minimamente, io ne sono convinto. L'unica cosa che può interessare, da qui riprendiamo, è: tutto questo rischia di far cadere il governo? Beh, questo, se uno italiano dice non me ne frega niente che ci sia un governo, cada un governo, vabbè, è un italiano che può prendere, andare in Burundi, perché il suo interesse nella vita politica e del paese è zero. E questa è l'unica cosa invece interessante da capire, cioè cadrà il governo su questa vicenda oppure no? Eccoci qui, 8:48 minuti. Allora, sentiamo Stefano da Forlì. Stefano, buongiorno, a lei interessa questa vicenda di Berlusconi? Assolutamente, io sono indignato. Assolutamente sì. Ma in questo momento, assolutamente no. Ah. Io sono indignato, e questa volta la cosa paradossale è che non so se essere più indignato con i politici per quello che non stanno facendo, o con noi, o con i mass media, certo, per quello che fanno di cassa di risonanza a dei problemi che non esistono. Però mettiamola così, se invece questa cosa influenzasse sulla caduta tenuta del governo, questo potrebbe interessare. Io inviterei tutti i giornalisti, quando qualcuno parla dei problemi di Berlusconi, che ci sono oggettivamente, ma sono di un'ordine di grandezza inferiore. Appena detto l'Istat. Il cellulare ci abbandona, sì, ho capito cosa vuol dire, sono inferiori ai problemi degli italiani, abbiamo 5 milioni di poveri, questo dice l'Istat, e questi sono i temi di cui occuparsi. Vero, certamente è vero, però la questione è sul governo. Giulia Innocenzi, cade il governo? Tiene il governo? La questione sul governo c'è senz'altro, perché Berlusconi ha chiesto proprio a Letta di prendere in considerazione il caso, e Letta gli ha dato il 2 di picche. E Berlusconi ha fatto una gran mossa il 2 ottobre dando la fiducia a Letta, perché può ancora influire sul governo e quindi può usare la sua influenza sul governo come forma di ricatto per ottenere ciò che vuole. Io capisco benissimo quello che dice l'ascoltatore da casa, e noi saremmo i primi a voler parlare di altro. Il problema è che io purtroppo penso che questo sia un problema della nostra democrazia che va affrontato, e però con le regole condivise anche dei mezzi di informazione, cioè quando dice per cosa vi impedisce di parlare d'altro, perché la domanda può essere questa, cioè io per esempio oggi ne parlo, guarda, ma ho fatto una scelta proprio da tempo, chi mi segue sa che parliamo dei problemi il più possibile vicino alla gente, raramente di queste beghe della politica. Chi vi impedisce di non parlare di questo? Perché Milan, il resto dipende da questo, cioè anche la legge di stabilità e la sopravvivenza del governo, tutto dipende da questo, è come una cascata di eventi che dipende dalla vita di Berlusconi, purtroppo, perché è talmente acceso lo scontro che c'è oggi che purtroppo non possiamo dire evitiamo il problema, perché da quel problema dipende poi tutto il resto. Tutto il resto. Allora sentiamo prima di Furlan Mauro da Modena. Mauro, buongiorno. Buongiorno Milan. Che dice lei? Dunque, io parlo sono di sinistra, morale di sinistra, non ho l'iscrizione PD, ma vecchio DS. Sì. Io credo comunque che la scelta che è stata fatta dalla sinistra sul voto segreto è un errore. Sì. Il mio giudizio su Berlusconi è ovvio, quindi non ne voglio neanche parlare. I regolamenti non le so esattamente, ma ho la sensazione che questa scelta del palese e non segreto, c'è una remora della scelta sul Presidente della Repubblica di Marini e di Prodi, di 101, che mi porta a pensare che questo si potesse ripetere sul voto segreto. E questo per me è veramente un grosso rammarico. Cioè è stato un errore, ma perché secondo lei è un errore da parte della sinistra? Votare il voto segreto? Cioè votare il voto palese. Perché? Perché se voti segreto e non sei sicuro dei tuoi parlamentari, sì, e se ne hai avuto prova, i 101. Ah beh, certo, non è. E 101. E forse l'hanno fatto proprio per quello, così insomma nessuno nel segreto delle urne può. Allora, se non hai la sicurezza di chi hai portato al Senato in questo caso. Ah, è già la dimostrazione che. È la dimostrazione di debolezza e di paura, che per me è un grossissimo rammarico. Perché 101 è. Sì, 101 quelli, cioè, e come no, quelli che dovevano votare Prodi e non hanno votato Prodi alla Presidenza della Repubblica, certo. Mauro, è stato chiarissimo. Simone Furlan, terrà il governo o dovrebbe a questo punto Berlusconi, al di là di Zoo, Aquile, Falchi, dire come si fa a stare con un partito, in questo caso il Partito Democratico, che mi vota contro? Ma sa, è difficile governare con un Letta che io dico governa a maggioranze alterne, dove gli fa comodo per il governo con il PDL, dove gli fa comodo per far fuori Berlusconi col Movimento 5 Stelle, quindi è difficile, però mi permette di dire che al netto della questione Berlusconi questo governo non sta facendo niente per l'Italia e per gli italiani. Questo è un giudizio politico che va equiparato allora al governo delle larghe intese, quindi PD, PDL. Sì, certo, ma guardi, io infatti la colpa la faccio anche ai nostri governativi. Quando l'altro giorno Letta ha detto che, visto il fatto che ha sbloccato il patto di stabilità, l'edilizia può ripartire perché i comuni appalteranno, io vorrei dirgli: vieni con me in un cantiere, dillo a un muratore che ti dà una cazzuola sulla testa, perché è fuori dal mondo. Allora, secondo me, questo governo deve andare a casa. A casa. E non per la questione Berlusconi, ma perché ci sono mille motivi. Però, per Furlan, lei si metta un attimo nei panni di Letta, cioè c'è una condanna definitiva. Cosa dovrebbe. E c'è uno che dice: se mi votate la decadenza, io non sto più. Cosa dovrebbe fare? Cioè, Letta dovrebbe dire: ma scusa, c'è una condanna, cosa vuoi da me? Cosa posso fare io per te, visto che c'è una condanna definitiva? Partiamo dal presupposto che Letta, quando è stato costretto, dopo le vicissitudini di Bersani, a fare questo governo delle larghe intese, sapeva che c'era questa patata da gestire. Ho capito. L'unica cosa che gli si chiedeva era il buon senso. È stato fatto un appello alla Corte Costituzionale e soprattutto, ho detto prima, i tempi normalmente sono molto più rilassati, tanto Berlusconi decadrà, bastava non metterci questa cattiveria politica che loro serve per tirarci le simpatie del Movimento 5 Stelle, che li ha sempre snobbati e delisi. E soprattutto tutto gli serve per quel congresso che stanno facendo, quindi è solo una questione politica. Ma già rasserenare, già far digerire al popolo il Partito Democratico e larghe intese è stata una dura impresa. Adesso, secondo lei, Letta potrebbe dire sì, effettivamente dobbiamo mantenere lì Berlusconi, rallentiamo la procedura, cioè lo aspettavano nei circoli del Partito Democratico, sì, con le cazzuole, come dice lei. Però mi permetta di dire una cosa, che io tra l'altro ho simpatia per Giulia, una ragazza giovane, ed è bello vedere dei giornalisti giovani, però sentir dire da lei che si vorrebbe parlare d'altro, quando purtroppo 2 settimane fa o la settimana scorsa abbiamo assistito a una puntata totalmente dedicata neanche a infangare Berlusconi, la Bonner. A tirare in ballo Pascale, che non c'entra niente, è evidente che non c'è la volontà di parlare d'altro. Vediamo, Giulia, ma ha querelato anche te? O è arrivata la querela della Pascale? Non si sa. Questo non lo so. Che so è che in quella puntata abbiamo anche parlato di come la Bonef abbia chiesto e ottenuto finanziamenti con i soldi pubblici della RAI attraverso Berlusconi, e che quella notizia, insieme alla notizia che riguardava la Pascale, era su tutti i giornali del mondo. Dove c'è la notizia, noi la raccontiamo. C'è il servizio pubblico, come stasera. Giulia, io devo finire, ho 20 secondi, sai che quelli di i tuoi amici di Libero e il Giornale oggi ti mettono in prima pagina, hanno detto che sei, ma è vero che se non hai passato l'esame da giornalista? Purtroppo il tempo per studiare poco, come è successo a colleghi molto più autorevoli di me in passato, quindi... Lo rifarai presto, lo rifarai, sì. Toccherà rifarlo, va bene. Studia di più, ma sì, ma poi non è lì studiare, è un po' un ternallotto. Grazie a Giulia Innocenzi, grazie a Simone Furlan. Ci ritroviamo domattina, noi ci siamo, è il 1° novembre, ma noi ci siamo, 6:30. Vi voglio qui tutti puntuali, 6:30, tutti ad ascoltarci, a domani. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.